Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 16 e 34 minuti, Luca Tremolada. Oggi due storie che non c'entrano veramente niente l'una con l'altra. Lo mettiamo subito, lo diciamo subito, onde evitare confusione, link, retropensieri. Non c'entrano nulla. Una parla di energie sostenibili, di strada che produce energia. L'altra invece è la chiosa, la doverosa chiosa. A che cosa? Alla questione Facebook. Insomma, chiunque smanetti sulle tastiere, su internet, ha letto per almeno un mese di questa vicenda legata alla privacy, ai cambiamenti di strategia del più popolare social network del mondo. Noi cercheremo di capire entrambi i progetti, anzi cercheremo di capire che cos'è questa strada che produce energia e cercheremo di capire come è andata a finire con Facebook. Ma prima le news. In principio fu la scimmia, poi l'uomo e infine il robot. Un automa antropomorfo potrebbe diventare il primo robonauta. La NASA si prepara a mandarlo entro l'anno sulla Stazione Spaziale Internazionale, della quale è destinato a diventare un membro permanente con il compito di aiutare l'equipaggio. Il robot si chiama Robonaut 2, o R2, è bianco e pesa circa 140 kg, ha una testa con un unico occhio rettangolare azzurrino, due braccia, due mani e il busto che può essere fissato a supporti di tipo diverso a seconda del modo in cui dovrà essere utilizzato. Windows, per Google, non è abbastanza sicuro. Secondo il Financial Times, Google starebbe togliendo i computer con sistema operativo Windows dai suoi uffici per limitare i rischi di attacchi informatici. La direttiva di passare ad altri sistemi operativi sarebbe partita a gennaio, dopo il cyberattacco originato dalla Cina. Steve Jobs rassicura gli editori. Il numero uno della Apple ritiene che si pagherà per avere le notizie online. «Non voglio che ci trasformiamo in una nazione di blogger», ha detto Jobs. «Questa», aggiunge riferendosi all'iPad, «è un'opportunità potenziale per fornire più valore di una semplice pagina web e ritengo che si possa cominciare a chiedere dei piccoli ricarichi su tutto ciò. Penso che la gente voglia pagare per avere contenuti». E se lo dice Steve Jobs, comunque il Robonaut piace a tutti, ogni volta che ci sono notizie sul robot noi le mettiamo, ci piace un sacco, come ci piace anche l'idea di avere una strada che è talmente ecologica, talmente sostenibile, talmente di moda, mi viene da pensare, che produce pure energia. Noi abbiamo una delle persone che l'ha concepita, l'ha studiata, l'ha progettata e l'ha realizzata in un certo senso, Giulio Ceppi, che è professore al Politecnico di Milano e fondatore di Total Tool. Buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno. Allora, sentiamo prima un po' di che cosa tratta, diamo qualche numero e poi vediamo di capire il progetto di questa strada. Sistemi microeolici su di una superficie di 3.000 metri quadri, impianti fotovoltaici per 5 km quadrati, 1.200 sonde geotermiche. Sono i numeri di Chilometri Zero Road, la strada sostenibile, anzi, la strada che produce energia. L'ha progettata e promette milioni di kilowatt di risparmi. Il progetto Chilometri Zero Road è di Giulio Ceppi, docente del Politecnico e fondatore di Total Tool, società di management dell'innovazione, oggi con sedi a Tokyo e Buenos Aires. Il progetto, si legge nella nota, prevede un investimento medio su di un chilometro di strada pari a circa 7 milioni di euro, ammortizzabili approssimativamente in 6 anni, grazie al ricavo annuo di 1.190.000 euro. Chilometri Zero Road ha alle spalle decine di aziende interessate a produrre tecnologia. Il progetto è stato presentato in aprile. A pochi mesi di distanza vediamo di capire come sta andando e se qualcuno ha colto l'opportunità della strada verde. Allora, innanzitutto, come nasce Chilometri Zero Road? Io non lo riuscirò mai a dire con un R giusta, per cui dirò subito solo Chilometri Zero. Mi fermo qui. No, guardi, nasce da una decina di anni di lavoro intorno al tema delle strade, della viabilità, anche se dal lato, diciamo, di chi si ferma, visto che da tanti anni lavoro con autogrill e con aziende che si occupano di ristorazione, e a furia di affacciarmi sulle strade con le mie architetture mi sono reso conto che se davvero i trasporti devono diventare verde, non possono essere né solo le architetture che ci si affacciano intorno, né solo i mezzi stessi, auspichiamocelo, di trasporto, ma anche la stessa infrastruttura, lo stesso supporto su cui poi mezzi di trasporto puliti, auspichiamocelo ancora, possono viaggiare. Quindi il ragionamento è nato da lì. Tra l'altro, Ceppi, mi sembra di capire che hanno aderito moltissime aziende. A che punto siamo? Perché insomma, di solito poi noi giornalisti ci innamoriamo anche di questi progetti, è stato presentato la triennale, ne hanno parlato un po' tutti. A questo punto, cioè dopo aver annunciato questo che è sicuramente un oggetto interessante per il verde, poi magari ci spiega anche quanta energia si potrebbe produrre, che cosa è successo? Ma diciamo che sono moderatamente ottimista, perché abbiamo una decina di soggetti, di aziende che chiaramente vengono tutti dal settore delle costruzioni stradali, ognuna delle quali ha una tecnologia, dal fotovoltaico a asfalti fotocatalitici a sistemi appunto di aerogenerazione, ma anche chiaramente aspetti relativi alla sicurezza, quindi barriere protettive piuttosto che forno assorbenti, che stanno lavorando insieme a noi. Andremo adesso a Leire, alla fiera del real estate, proprio perché questa strada cambia anche il concetto di cifra e di investimento che ruota intorno al manufatto strada, perché vuol dire che una strada ha una rendita sul tempo, quindi diventa un soggetto appunto di investimento immobiliare, cosa che fino a ieri non era. E poi da un punto di vista invece più, chiamiamolo, paesaggistico, parteciperemo alla Biennale di Venezia, che comunque è un riconoscimento di un'altra natura, ma importante. Recentemente abbiamo anche preso questa menzione della Confcommercio, che mi ha fatto molto piacere, perché a oggi, ecco, la strada è ancora un concept, quindi spero, e poi magari ne parleremo, di arrivare presto a una realizzazione. Ci sono dei buoni indicatori in questa direzione, però ecco, mi ha fatto molto piacere che Confcommercio abbia riconosciuto, credo anche data la presenza di 10 aziende importanti intorno all'idea, che ne danno appunto la solidità e la tecnicità, la fattibilità, ecco, questo tributo. Mi perdoni la franchezza, perché poi quando ci sono questi progetti, no, tutti contenti, insomma, la strada verde, la strada che produce energia e tutto quanto, l'impressione è che insomma, sì, ok, dai, andiamo, partite, poi non succede nulla. Nel senso che poi magari per questioni di cultura, per questioni di investimenti, per questioni perché c'è la crisi, per mille motivi, ciascuno sicuramente valido, insomma, diventano dei concept, restano dei concept, restano delle belle idee, restano delle vetrine sulle tecnologie, ma si ferma lì. Ovviamente. No, ha assolutamente ragione. Per evitare questo noi abbiamo usato, diciamo, un accorgimento, che è stato quello di mettere intorno al tavolo appunto una decina di soggetti che appartengono alla filiera, chiamiamola, costruttiva della strada. Quindi c'è chi si occupa delle preparazioni, delle verifiche dei terreni e dei sottosuoli, chi si occupa della posa, dei manti e degli asfalti o costruisce le macchine per farlo, chi si occupa di tutta la segnaletica, l'illuminazione, gli elementi verticali, e chi si occupa della gestione, perché ovviamente la strada poi deve rendere su un piano energetico. Quindi credo che questa idea possa, ripeto, incrociando le dita, avere gambe solide e andare avanti, proprio perché con fatica, perché questo costa fatica progettuale, energia non solo di pensiero ma anche fisica, certo. Ma avere, ecco, i soggetti che, ripeto, lavorano su tutta la filiera o sulle parti, chiamiamole, più importanti. E Nova Lab sarà lì ad seguirvi, nel senso, se succede qualcosa, qualcuno si tira indietro, ce lo dite, tornate al microfono, ci raccontate. Un'ultima cosa, a che cosa sta lavorando? Perché lei è un po' un pozzo di idee, nel senso che, anzi una fucina di idee, un pozzo di idee. Brutto, una fucina di idee. Sì, una fucina più eruttiva, sì. Mi piace di più, anche se si deve partire dal pozzo, bisogna partire dal fondo, infatti. Sono d'accordo. Cosa state elaborando? Proprio due titoli, come si fa nei giornali. Ah, guardi, ecco, lo dicevo all'inizio e penso a questo punto, visto che si è inaugurato il cantiere la settimana scorsa, ma stiamo realizzando una nuova struttura per autogrill, che dopo quella impatto zero appunto che abbiamo fatto a Ravenna l'anno scorso, invece questa è sulla Milano Laghi, quindi una zona molto frequentata, e sfrutterà anche questa la geotermia, avrà una grande copertura captante che porterà l'acqua di produzione del caffè, che non mi ricordo onestamente quanti milioni di tazzine sono per autogrill, ma sono dai tante. 14, ecco, dai 14-15 gradi dell'acqua di falda già a 60-70, quindi con un risparmio di energia che per un'azienda come autogrill è molto significativa. Beh, e magari più importante. Questo con la geotermia. Questo con la geotermia e l'uso, diciamo, passivo dell'irraggiamento solare, quindi riempendo il tetto di canaline d'acqua che porteranno acqua calda dentro nelle macchine del caffè. Grazie Ceppi. Passiamo subito a Luca. Luca Conti, è al mare lei, diamoci del lei. No, qui a Senigallia è nuvoloso e tendente al pioggia, quindi meglio. Non sono al mare. Nova Lab 24. Rieccoci in studio, abbiamo fatto un brevissimo curriculum di Luca Conti che insomma è il nostro inviato su, perché ci racconterà un po' quello che è successo nel caso Facebook per tre mesi, anzi da aprile insomma se ne sta parlando. Prima è stata condannata una protesta mediatica per la privacy, adesso sembra tutto rientrato e noi abbiamo deciso come Nova 24 di impegnare il nostro inviato in che cosa? Capire se è veramente tutto finito. Beh, la privacy è un tema molto caldo sui media, ma sembra poco caldo nei navigatori, perché Mark Zuckerberg, nel presentare le nuove impostazioni della privacy di Facebook, che consentono quindi di gestire più facilmente e modificare più facilmente la condivisione e chi ha accesso ai nostri contenuti, ha detto che circa la metà dei 400 milioni di utenti iscritti a Facebook non ha mai modificato le impostazioni e quindi non sembra essere molto sensibile a chi vede le cose. Ecco, Luca, spieghiamo una cosa, cioè dietro insomma questa polemica, questa protesta che è andata sulle pagine del Wall Street Journal, è andata sulle pagine del Financial Times, che cosa c'era? C'era insomma il dubbio che Facebook in qualche modo ci osservasse, fosse una sorta di grande fratello, prendesse i nostri dati personali e li vendesse da qualche altra parte, no? Sì, Facebook nel modificare le impostazioni della privacy ha specificato chiaramente che i nostri dati personali non sono venduti, non sono ceduti agli inserzionisti che acquistano pubblicità sul network. Questo cosa significa? Significa che i nostri dati personali non sono noti a chi fa pubblicità, ma messi tutti insieme in forma anonima ovviamente sono distribuiti. Quindi insomma loro non sanno cosa pensa, quali sono i gusti di Luca Tremolada, però sanno l'insieme delle persone che hanno un profilo su Facebook, per semplificare. Esatto, sono in grado di far apparire un banner pubblicitario a Luca Tremolada perché nel suo profilo ha scritto magari che ama attento a quello che dice ama le automobili e quindi una casa automobilistica gli fa apparire i banner senza sapere esattamente a che cosa è interessato. Una previsione, come andrà a finire? È finita o ci saranno degli strascichi, ci saranno altre polemiche? Zuckerberg proverà a mettere ancora le mani in questo cruscotto sulla privacy? A mio avviso è un tira e molla che è destinato a ritornare di attualità tra qualche mese, perché Facebook ha l'interesse di far sì che gli utenti rendano pubblici il maggior numero di contenuti, e questo perché più contenuti sono pubblici, più dati sono accessibili alle aziende, ai media e a chi fa analisi di mercato. Oggi per esempio su Twitter più del 90% delle conversazioni sono pubbliche, su Facebook invece la maggior parte sono accessibili soltanto alla nostra rete di amici, e questo è un punto debole che Facebook sta cercando di risolvere, quindi aumentando progressivamente le possibilità di condividere. Gli utenti non sempre sono contenti e quindi questo scontro è destinato a continuare. Conti, siccome ti voglio bene, ti dico subito che puoi fare uno spot. In libreria c'è il tuo libro? Da poche settimane c'è Comunicare con Twitter. Oh, vedi il tono anche da spot. Comunicare con Twitter in tutte le librerie, si parla di? Si parla di Twitter, un sistema di comunicazione più semplice di Facebook. Se non l'avete provato, andate su twitter.com e iscrivetevi. Va bene, va bene. Grazie Luca Conti. Chi non ha assolutamente di questi problemi su Facebook è Pierangelo Soldavini, che non è su Facebook. Notoriamente non è su Facebook, non è su Twitter. Non mi cercate, non mi trovate. No, una privacy però, vera. Però capisco perfettamente che cosa c'è dietro e le esigenze. Infatti volevo aggiungere una cosa, cioè nel senso che spesso si demonizza Facebook o i social network per la privacy, il rischio che le informazioni che diamo vadano in giro e così senz'altro. Ecco, quello che io credo che sia importante è che questo non prevalga sull'utilità della comunicazione nel social network, che l'utente sappia quali sono, diciamo, sia cosciente di quello che succede alle informazioni che vengono messe in comune. Ma sì, tra l'altro io la vedo molto, cioè, io ho sempre pensato che entrare su questi social network è un po' come andare in un locale dove hai mille occhi addosso, lo sai, nel senso non sono spazi privati, se io entro lì dentro è per fare amicizia, per far conoscenza, qualcuno mi guarda e qualcuno dirà quello che sto facendo, se io mi ubriaco in un locale lo sapranno tutti, insomma, questa è un po' la mia chiave un po' semplicistica, mentre non è semplicistica la chiave invece di Nova di domani in edicola. Almeno non è semplicistica, cerchiamo di semplificare una realtà che è complessa. Che è la realtà africana. Che è la realtà africana, dove noi abbiamo mandato, o meno, ci è andato lui in vista dei mondiali in Sudafrica, Luca Dello Jacopo. Caramba, che sorpresa, perché ce l'abbiamo in collegamento. Poi l'abbiamo mandato, è anche brutto, ce l'abbiamo mandato in l'abbiamo Africa. L'abbiamo mandato, ma è ancora in Africa? No, sono tornato dall'Africa. È stata un'esperienza molto bella e appunto c'è un resoconto di alcune cose che ho visto negli articoli che sono su Nova e le cose più belle sono quelle che poi riguardano il mondo che cambia attraverso internet e attraverso le telecomunicazioni in Sudafrica, e quindi non ci sono le immagini a cui magari siamo abituati di povertà estrema. Ecco, tra l'altro posso dire, nel senso che Luca Dello Jacopo non ama il calcio, cioè nel senso è andato in Sudafrica ma del calcio nulla. Mentre tutto il mondo si appresta a andare lui tornava, virtualmente capito? In Sudafrica lui stava tornando, perché lui è andato a vedere proprio l'Africa, cioè la tecnologia, cioè è serio l'approccio, non è andato a vedere l'Africa patinata che ci faranno vedere tutti media nel prossimo mese, ma l'Africa reale. Tra l'altro Dello Jacopo racconta due cose, cioè è vero che sei andato nelle bidonville, è vero che sei stato, hai rischiato la vita, di qualche cosa. No, non ho rischiato la vita, però sono stato nelle bidonville attorno alle città. È lì che poi si vede anche come le tecnologie stanno cambiando la vita delle persone, perché saranno anche bidonville, però hanno delle reti di telecomunicazione di terza generazione che sono accessibili attraverso i cellulari, tantissimi, quasi tutti hanno i cellulari, li usano, soprattutto i ragazzi li usano, ci sono dei progetti stupendi per cambiare poi quello che si riesce a cambiare della vita nelle bidonville, alcuni riguardano il mobile banking e quindi la possibilità di accedere a conti correnti attraverso... Insomma, non hai fatto il fighetto, ecco, non hai fatto il fighetto in Sudafrica, noi siamo orgogliosi, infatti cioè, sei andato a vedere là dove le tecnologie vengono riviste, rimanipolate. Infatti, se c'è una cosa che a me ha affascinato del racconto di Luca è proprio il fatto che il telefonino, che per noi è uno strumento di comunicazione ma anche di gioco, di navigazione, tendenzialmente di intrattenimento, emerge dal suo racconto come praticamente un'infrastruttura per lo sviluppo, cioè il mobile banking, la comunicazione, l'SMS, la comunicazione in termini di sanità, di turismo, diventa un'occasione di sviluppo di business, ma nel senso positivo, cioè di creazione di opportunità, come racconta lui, attraverso una miriade di iniziative, anche attraverso i social network, che per noi appunto, ripeto, sono semplicemente dei giochi. Ci stanno sfumando Dello Jacopo, lei conosce perfettamente, adesso le do del lei i tempi radiofonici, sa che quando c'è questa musichetta non abbiamo più i secondi, per cui ricordiamo il titolo della copertina, Digita Africa, domani in edicola, Sole 24 Ore, 9:24. Noi ci sentiamo, anzi ci sentiamo domani alle 16:30, arrivederci. Nova Lab 24. Nova Lab 24.